Ciao a tutti, sono Marco Parolini, sono di Trento, sono sposato e ho due figli e faccio il mestiere più bello del mondo, il formatore. E sono un grande appassionato di alpinismo e di ciclismo.